nel raccontare la vita di un santo sacerdote, certo uno dei più grandi modelli di vita sacerdotale vissuta bene, uno dei più grandi modelli che ci offre la storia della Chiesa, cioè il santo curato da Ars, di cui abbiamo cercato di mettere in luce molti aspetti della sua personalità e della sua santità, mantenendolo sulla scena per ben 3 anni e spero non inutilmente. E il curato d'Ars è una figura così ricca e così affascinante che certo ha molte cose da dire e da insegnare un po' a tutti, vero? Principalmente ai sacerdoti, ma poi anche sicuramente ai religiosi e ai laici. E penso che il suo attaccamento a Dio e al dovere siano valori, siano ricchezze che riguardano tutti, non solo i preti, non solo quindi i suoi confratelli. Comunque, come sapete, siamo ormai giunti alla soglia estrema della sua vita, stiamo cioè raccontando il suo ultimo anno e fra poco racconteremo la morte serena e assai edificante. Ma prima dobbiamo proprio considerare quanto precede la morte, vale a dire l'ultima malattia, l'addio ai parrocchiani e il curato moribondo ormai nella calma dell'estasi. Beh, cominciamo a dire che nel 1859, verso la fine di luglio, il caldo divenne torrido, opprimente. Giorno e notte si erano oppressi tutti quanti da un'afa insopportabile, simile a quella che precede i temporali. All'aperto l'aria era caldissima e la piccola navata della chiesetta di Ars, piena di pellegrini, venuti con affluenza insolita, era diventata come un forno per cui vi si soffocava. Ogni momento si vedeva qualche persona dirigersi verso la porta per poter cambiare aria, ma il santo era sempre al confessionale, martire della sua eroica abnegazione. E qui dobbiamo ricordare, carissimi, che un giorno dalle sue labbra si erano udite queste parole: «Se un prete dovesse ridursi in fin di vita per le fatiche sopportate per la gloria di Dio e la salvezza delle anime, non sarebbe un male, anzi un gran bene». Ed ecco appunto che il suo sogno stava per avverarsi, stava per diventare realtà. Il venerdì 29 luglio, appena alzato dal letto, si sentì male. Ciò nonostante scese in chiesa verso 1 di notte e come sempre entrò in confessionale. Ma si sentiva soffocare, per cui più volte dovette lasciare la chiesa per riposarsi un momento in cortile, dato che lo consumava la febbre. Bene, alle 11, prima di fare il catechismo, chiamò in sacrestia il fedele Oriol, che era uno dei custodi volontari della chiesa, e gli domandò un po' di vino, evidentemente a mo' di tonico. Ne raccolse qualche goccia nel cavo della mano e la bevve. Poi salì sul pulpito, senza aiuto di nessuno, e cominciò a parlare. O meglio, accennò a parlare, dato che muoveva le labbra, ma nessuno capiva le sue parole. Si intuiva però che anche allora parlava del suo argomento favorito, e poiché ogni tanto, levando lo sguardo al tabernacolo, lo fissava con gli occhi bagnati di pianto. Alla sera, rientrando in casa, piegato in due, appoggiato al braccio di fratel Girolamo, sembrava vicino alla morte. E qui dobbiamo ricordare che si trovava al suo passaggio la famiglia dei conti di Garé, vale a dire la famiglia del sindaco, ed egli levò la mano tremante per benedire questi cari amici. Dopodiché essi dissero, piangendo, con un presentimento nel cuore: «È l'ultima volta che ci benedice». E qui attenti. Ai piedi della scala ebbe una piccola crisi, ma si riprese subito. E fratello Atanasio gli consigliò di ritornare all'aperto, perché l'aria gli avrebbe fatto bene. Per cui egli acconsentì. E sempre appoggiandosi al religioso, si diresse verso la casa dei fratelli, ma subito ritornò perché non si reggeva in piedi, e a stento raggiunse la sua camera. Fratello Gerolamo lo aiutò a coriscarsi e infine, cedendo alle sue insistenze, lo lasciò solo. Ebbene, circa l'una dopo mezzanotte, sentendosi infreddolito, intirizzito, malgrado, nonostante l'afa soffocante, senza un alito di vento, bussò per chiamare qualcuno. E Caterina, che a insaputa del curato era rimasta nella camera vicina, per essere pronta a ogni minimo rumore, fu la prima ad accorrere. «È la mia povera fine», disse con un sospiro. «Bisogna chiamare il parroco di Yassin, suo confessore». Frattanto, avvisato da Caterina, entrava nella camera anche fratel Gerolamo. Era l'una in quarto, l'una e mezza di notte, cioè l'ora in cui durante quella stagione il curato era solito scendere in chiesa. Ma al fratello sagrestano questa volta non parlò né di alzarsi né della messa. Dato che si sentiva vicino alla morte e ripeteva continuamente «È la mia povera fine, è la mia povera fine, chiamatemi il confessore, chiamatemi il confessore». «Chiamo anche il medico», esclama Caterina. Risposta: «No, è inutile, il medico non può fare più nulla». A questo punto giunse piangendo anche don Toccanier. «Signor curato, Santa Filomena, che vi ha guarito 16 anni fa, vi guarirà anche questa volta?» Risposta: «No, Santa Filomena in questo caso non potrà farci niente». Dopo un po' giunsero quasi assieme il parroco di Yassin, suo confessore, e il medico Saunier. Ed erano i primi albori del giorno. Il dottore non poté che constatare l'estrema debolezza del malato, che non aveva più alcuna forza per reagire, e concluse la diagnosi con queste parole: «Se il caldo diminuisce rimane un residuo di speranza, ma se il caldo continua lo perdiamo». E il caldo purtroppo non fece che aumentare, intanto che su Ars si preparava un temporale. E quando i pellegrini giunti nella notte seppero che alla mattina il curato non sarebbe sceso e che forse non l'avrebbero più visto, ci fu una desolazione generale indescrivibile. La porta che si apriva sul cortiletto fu assediata e alcuni, non si sa per quale favore, a meno che non fossero stati invitati dallo stesso curato, vennero a fare la loro confessione vicino al suo letto. Ecco, fermiamoci un attimo qui, carissimi, poi continueremo questo racconto così affascinante della sua morte. Beh, adesso, carissimi, iniziamo il piccolo capitoletto intitolato «L'addio ai parrocchiani». E dobbiamo dire subito che Don Vianney, sempre così riluttante a lasciarsi dirigere dagli altri, era diventato in quelle ultime ore docile come un bambino. Si ricorderà, per esempio, con quale difficoltà durante la malattia del 1843 si era riusciti a fargli accettare un materasso. Questa volta, invece, quando il mattino del sabato ne fu posto uno sul suo duro pagliericcio, non solo lasciò fare, ma ringraziò silenziosamente con un sorriso. Trangugiò tutte le medicine che gli presentarono e solo protestò quando una suora di San Giuseppe, che stava al suo capezzale, cominciò a cacciare le mosche che si fermavano sul suo viso coperto di sudore. Fece allora un gesto molto espressivo, quasi per significare «lasciatemi solo con le mie povere mosche, perché non mi danno noia, soltanto il peccato mi dà noia». Ebbene, il suo confessore, che fu il testimonio commosso della sua morte sublime, dice che aveva perfetta lucidità di mente e la conservò fino all'ultimo momento. Si confessò con la solita pietà, senza alcun turbamento e senza farmi parola del suo male. E dobbiamo dire che non mostrò mai in questa occasione alcun desiderio di guarigione. E con tutta probabilità il demonio non ebbe il permesso di tormentarlo in quell'ora suprema, per fortuna. Sappiamo benissimo che il suo più grande timore era proprio quello di cadere nella disperazione durante gli ultimi momenti, ma ora anche il timore della morte che aveva manifestato tante volte con tanta vivacità era completamente scomparso. Sappiamo pure benissimo che aveva assaporato fino alla feccia le amarezze di questa povera terra d'esilio. Ora invece assaporava, diciamo pure, le delizie della morte, dimostrando praticamente e concretamente la verità delle sue sublimi parole. Com'è bello morire quando si è vissuto sulla croce. Bene, i progressi della malattia furono rapidi, ma il servo di Dio sembrava godere di una perfetta calma, senza alcun lamento. Quasi non soffrisse più. Intanto attorno a lui, che pure sembrava preferisse rimanere solo, si radunavano preti, religiosi e buoni laici. Gli abitanti di Ars, vale a dire i suoi diletti parrocchiani e molti pellegrini, si presentavano incessantemente alla porta della sua camera per far benedire oggetti di pietà e chiedere per sé un'ultima benedizione. Ed egli accondiscendeva volentieri a tutti questi pii desideri senza dire una parola. E qui dobbiamo dire, carissimi, che la vigilia della morte, quando non si voleva che più alcuno giungesse fino a lui, vi furono di quelli, sempre parrocchiani, che vi salirono a forza, e anche se fratello Atanasio vegliava alla porta con la consegna precisa di non lasciar passare nessuno. «Ci andremo anche se ce lo impedite», protestano i parrocchiani. «Fu curato nostro prima di essere curato vostro». Per cui fratello Atanasio finalmente acconsentì a lasciarli entrare, a patto però che non facessero il minimo rumore. E quando i parrocchiani giunsero a inginocchiarsi sulla soglia della sua camera, silenziosi, ma frenando a stento i singhiozzi, il santo li conobbe. Qualcuno allora guidò la sua mano tremante ed egli li benedisse con un segno di croce. E uno di loro ha detto: l'ho visto a letto l'ultimo giorno della sua vita, era dolce e tranquillo, come un angelo. E il conte di Garé, che quasi mai lasciò la canonica in quei giorni di desolazione, fece venire anche i suoi familiari. Il santo fissò per un momento quei suoi figli, che tanto amava, che amava paternamente, e pensate, ricordò che fino a quel momento non aveva ancora dato nessuna sua memoria alla signora, alla mamma, alla moglie del conte di Garé, che si chiamava Marta Filomena, e indicò con la mano a fratel Gerolamo di portargli una corona del rosario per lei. E qui ci dobbiamo porre senz'altro una domanda, carissimi. E i pellegrini? Cosa facevano? Come reagivano a questo stato di cose? Ebbene, sempre affollati fra la canonica e la chiesa, chiedevano del loro confessore, soprattutto coloro che erano giunti per ultimi domandavano di poterlo vedere almeno per una volta. Per cui furono avvertiti che il santo li avrebbe benedetti dal letto e al momento stabilito, al segnale di un piccolo campanello, si poté vedere quella moltitudine dentro e fuori della canonica inginocchiarsi e fare il segno della croce, è bellissimo. In chiesa si videro gruppi di persone rimanere a lungo davanti all'altare di Santa Filomena a pregare la cara piccola santa, come la chiamava lui, di guarire il suo grande amico di Ars. E dobbiamo dire, carissimi, che vi furono anche anime pie che per ottenere questa guarigione fecero il pellegrinaggio al più vicino santuario mariano. E dobbiamo anche dire che fu fatto tutto quello che era umanamente possibile per portare sollievo al santo infermo. Pensate, il dottor Saunier aveva detto: se il caldo diminuisce possiamo ancora sperare. Ciò bastò perché gli abitanti di Ars, nell'intento di portare un po' di frescura alla canonica, distendessero sopra il letto dell'infermo lunghe tele che alcuni volontari, salendo sopra delle scale, bagnavano a intervalli. Ecco, per cui dobbiamo dire che fu assai ammirevole lo spirito di sacrificio di tutta la popolazione. Ecco, qui fermiamoci ancora un attimo, poi concluderemo per oggi. Beh, allora qui, carissimi, iniziamo l'ultimo capitoletto, almeno per oggi, l'ultimo capitoletto che precede immediatamente la morte ed è intitolato «Nella calma dell'estasi». Ormai il moribondo non pareva più appartenere alla terra. Il suo confessore ha detto che le sue labbra non facevano più alcun movimento, ma i suoi occhi fissi verso il cielo lasciavano capire che egli era in contemplazione. «Ritengo, dice il confessore, che vi fosse in lui in quel momento qualcosa di straordinario. Alle diverse domande che gli venivano poste, gli venivano rivolte, rispondeva solamente sì o no. Disse in effetti poche parole, proprio come Gesù sulla croce. La mattina del martedì 2 agosto si succedettero al suo capezzale fratello Atanasio e don Toccanier. E quando gli fu annunciata la visita del medico, disse: «Mi restano 36 franchi. Pregate Caterina di darle al signor Saunier. Poi gli dica di non venire più, perché non potrei più pagarlo». E don Toccanier confidò al curato i suoi timori per l'avvenire. «Padre mio, poiché il governo ha rifiutato l'autorizzazione della lotteria per la nuova chiesa e il Signore vi chiama da questo mondo, è finita». Risposta: «Coraggio, amico mio, ne avete ancora per 3 anni». Difatti 3 anni dopo don Toccanier aveva raccolto il denaro sufficiente per iniziare la costruzione della nuova chiesa. Ebbene, in quello stesso giorno 2 agosto, verso le 3 del pomeriggio, il suo confessore credette giunto il momento di amministrargli gli ultimi sacramenti. Del resto era stato questo anche il desiderio esplicito espresso dal morente, vero che si era opposto all'idea di farlo attendere fino al mattino seguente. «Quanto è buono il Signore», diceva, «quando non si può più andare a trovarlo, è Lui che viene». Ed ecco che la campana della chiesa suonò i rintocchi consueti quando il parroco di Yassin, accompagnato da una ventina di preti, recanti tutti in mano un cero acceso, procedeva portando il santo viatico. Al suono della campana che annunziava l'uscita del Santissimo, nuove lacrime brillarono sugli occhi del morente. Fra Elia, che era vicino al capezzale dell'infermo, gli rivolse allora una domanda: «Signor curato, perché piangete?» Il santo rispose: «È cosa triste comunicarsi per l'ultima volta». E vedendo il corteo entrare nella sua camera, senza aiuto di nessuno, si alzò a sedere sul letto, congiunse le mani e versò lacrime più abbondanti ancora. Suo confessore gli diede il santo viatico e l'olio degli infermi, che egli ricevette con la solita fede e pietà. Mentre nella camera, già eccessivamente calda, si dovettero spegnere i ceri. Bene, dopo questa commovente cerimonia, il santo fu assistito da don Stefano, viceparroco di Farens. «Signor curato», gli mormorò il vecchio confratello, «voi siete col buon Dio?» «Sì, amico mio», rispose il curato con un celeste sorriso, e don Stefano a lui: «Festeggiamo oggi la traslazione delle reliquie di Santo Stefano. Questo santo, mentre era ancora sulla terra, vedeva già il cielo aperto». Queste parole anche il santo curato alzò gli occhi al cielo con un'espressione straordinaria di fede e di felicità. E così, carissimi, anche per oggi abbiamo concluso, in attesa di narrare la morte santa, la morte edificante, non senza prima aver parlato del suo testamento spirituale. Ecco, io penso che davanti a questo racconto ognuno di noi senta in certo qual modo una santa invidia, vero? Si vorrebbe tutti fare una morte così, tanto più dopo aver vissuto una vita così, Ma comunque, carissimi, come si dice nella colletta di San Luigi Gonzaga, se non l'abbiamo seguito nella via dell'innocenza, almeno lo vogliamo seguire nella via della penitenza. Sappiamo di non aver fatto nulla o quasi di degno nella vita, ma noi siamo ugualmente fiduciosi che in quell'ultima ora prevarrà nei nostri riguardi la misericordia del Signore. E la nostra buona Mamma Celeste ci farà da avvocata, dato che certo non scorderà le molte preghiere che le abbiamo fatte in questo senso. Prega per noi peccatori adesso e nell'ora della nostra morte. Se tu guardi le colpe, o Signore, chi resisterà? Ma presso di te è il perdono, perciò noi avremo il tuo timore. Ecco, abbiamo concluso per stasera. Prima lettura dagli Atti degli Apostoli, siamo al capitolo 8 e ci racconta un fatto molto bello, cioè il successo che ottenne il diacono Filippo in una città della Samaria e poi la venuta in quella città degli Apostoli per confermare l'opera di Filippo. In quei giorni Filippo, sceso in una città della Samaria, cominciò a predicare il Cristo e le folle prestavano ascolto unanimi alle parole di Filippo, sentendolo parlare e vedendo i miracoli che egli compiva. Da molti indemoniati uscivano spiriti immondi, emettendo alte grida, e molti paralitici e storpi furono risanati. E vi fu grande gioia in quella città. Frattanto gli apostoli a Gerusalemme seppero che la Samaria aveva accolto la parola di Dio, e vi inviarono Pietro e Giovanni. Essi discesero e pregarono per loro perché ricevessero lo Spirito Santo. Non era infatti ancora sceso sopra nessuno di loro, ma erano stati soltanto battezzati nel nome del Signore Gesù. Allora imponevano loro le mani e quelli ricevevano lo Spirito Santo. Parola di Dio. Ecco, adesso passiamo subito alla seconda lettura, sempre della prossima domenica, che è tratta dalla prima lettera di San Pietro Apostolo, capitolo 3, versetti da 15 a 18. Anche questo è un passo molto famoso della prima lettera di San Pietro, dove veniamo invitati a difendere la nostra fede con forza, con coraggio, ma anche con molta dolcezza, con molta carità. Carissimi, adorate il Signore Cristo nei vostri cuori, pronti sempre a rispondere a chiunque vi domandi ragione della speranza che è in voi. Tuttavia questo sia fatto con dolcezza e rispetto, con una retta coscienza, perché nel momento stesso in cui si parla male di voi, rimangano svergognati quelli che malignano sulla vostra buona condotta in Cristo. È meglio infatti, se così vuole Dio, soffrire operando il bene che facendo il male. Anche Cristo è morto una volta per sempre per i peccati, giusto per gli ingiusti, per ricondurvi a Dio. Messo a morte nella carne, ma reso vivo nello spirito. Parola di Dio. Alleluia, alleluia, se uno mi ama, osserverà la mia parola, dice il Signore, e il Padre mio lo amerà, e noi verremo a Lui. Alleluia. Ecco, passiamo subito al brano evangelico, che è tratto dal Vangelo secondo Giovanni, capitolo 14, versetti da 15 a 21. Un brano evangelico molto bello, che ci promette già il Consolatore, lo Spirito Santo, dove Gesù promette di non lasciarci orfani, ecco. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse ai Suoi discepoli: «Se mi amate, osserverete i miei comandamenti. Io pregherò il Padre, ed Egli vi darà un altro Consolatore, perché rimanga con voi per sempre». Lo Spirito di verità che il mondo non può ricevere perché non lo vede e non lo conosce. Voi lo conoscete perché Egli dimora presso di voi e sarà in voi. Non vi lascerò orfani, ritornerò da voi. Ancora un poco e il mondo non mi vedrà più. Voi invece mi vedrete perché io vivo e voi vivrete. In quel giorno voi saprete che io sono nel Padre e voi in me e io in voi. Chi accoglie i miei comandamenti e li osserva, questi mi ama. Chi mi ama sarà amato dal Padre mio, e anch'io lo amerò e mi manifesterò a lui. Parola del Signore. E ora, carissimi, cerchiamo di dire qualche parola di riflessione su queste letture. Ecco, ci sono molti elementi in questa liturgia che ci fanno pensare al sacramento della cresima. Ecco, avevamo parlato all'inizio del tempo pasquale, avevamo parlato prima del sacramento della confessione, poi il sacramento dell'Eucaristia. Ora parliamo un po' della cresima, anche perché questo è un periodo caratteristico di cresima in quasi tutte le parrocchie. Ecco, cresima deriva da crisma, vero? E crisma ha la stessa radice di Cristo, cioè unto, di un'unzione spirituale naturalmente, però associata a un'unzione materiale, che simboleggia un'altra unzione che avviene dentro, nell'anima. Ecco, però assomiglia anche a carisma, cioè dono, perché charis in greco vuol dire appunto grazia, dono gratuito. Dunque la cresima è un'unzione particolare che ti fa assomigliare a Cristo più ancora di quanto ha già operato in te il battesimo, che è il sacramento base, diciamo, no? E ti dà la pienezza del dono di Cristo, tanto che viene chiamato anche confermazione, confirmatio, cioè qualcosa che non è solo una ratifica solenne da parte del Signore, no, di quanto ti era già stato dato in precedenza nel battesimo, ma è anche qualcosa che ti viene dato in vista della tua maturazione, la tua maturità umana e quindi anche cristiana, spirituale. Ecco, mi pare molto bello, carissimi, mi pare molto bello e illuminante pensare che Cristo abbia istituito anche un sacramento specifico della maturità cristiana, diciamo dell'età adulta, perché in effetti la vita dell'uomo sulla terra non è sempre uguale, è vero, ma cambia. E il cambiamento più forte, più accentuato qual è? È appunto quello che avviene nel passaggio dall'infanzia all'età adulta, attraverso l'adolescenza, la giovinezza e ancora prima attraverso la pubertà. Ecco, sappiamo che all'inizio, cioè nella Chiesa primitiva, in genere la cresima era data immediatamente dopo il battesimo, vero? Sì. Ma la motivazione è molto chiara, molto semplice, cioè questa prassi antica derivava dal fatto che in genere il battesimo veniva dato agli adulti, cioè ai convertiti, no? A quelli che approdavano alla fede in età adulta. Per cui è logico che veniva data insieme ad altri due sacramenti, prima il battesimo, la cresima e l'Eucaristia, i cosiddetti sacramenti dell'iniziazione cristiana. Ma poi quando la fede si consolidò e divenne quasi un fenomeno di massa, allora si capì pian piano che si trattava di due sacramenti distinti. Precisamente uno per l'inizio della vita di fede, l'altro appunto per la pienezza, per la maturità, per lo sviluppo pieno della vita di fede, che presso poco ricalca quello che è lo sviluppo fisico e psichico dell'uomo. Anche se direi forse che di non accentuare troppo questa coincidenza, perché esiste anche, come sapete, esiste anche la cosiddetta maturità del fanciullo, per esempio, no? La maturità del fanciullo prima di iniziare la grande crisi dell'adolescenza. Maturità del fanciullo che avviene attorno ai 12 anni e che corrisponde pressappoco all'età che aveva Gesù quando fu smarrito e ritrovato fra i dottori nel Tempio di Gerusalemme. Per cui condivido in pieno la prassi della nostra diocesi ambrosiana di dare la cresima alla fine della prima media o al massimo all'inizio della seconda media. Mentre rimango perplesso di fronte a questa tendenza diffusa a protrarre la cresima fino ai 16, 18, 20 anni, quando il giovane è in piena crisi, no? E quindi ha più che mai bisogno di avere dentro di sé una grande riserva di forza soprannaturali per superare incolume e con pieno successo la grande bufera di questi anni giovanili. E comunque lasciamo a ogni pastore di farsi guidare e illuminare dallo Spirito Santo. Questo non ci riguarda. Noi, da parte nostra, vediamo di trarre qualche spunto dalle letture di oggi, applicandole appunto alla cresima. Beh, per prima cosa Mi colpisce questo successo strepitoso della predicazione di Filippo, meglio, del diacono Filippo, che non va confuso con l'apostolo Filippo. Successo strepitoso nel territorio della Samaria. E colpisce proprio questo fatto che le folle prestavano ascolto unanimi alle parole di Filippo, sentendolo parlare e vedendo i miracoli che egli compiva. Ecco, ricordiamo che i samaritani erano considerati stranieri dagli ebrei, vero? Anche se l'origine era comune. Difatti Gesù non aveva trascurato questo territorio nella sua predicazione, Ma notiamo anche, carissimi, che appena la Chiesa di Gerusalemme viene a conoscere questi fatti, manda subito due apostoli, precisamente Pietro e Giovanni, il più vecchio e il più giovane, no? Per completare l'opera del diacono Filippo. Anche se la lettura ci lascia chiaramente intendere che Filippo non aveva solo predicato e fatto miracoli, ma aveva anche battezzato questa buona gente. Ma ecco che gli apostoli, arrivando in quella città, quella zona, completano l'opera e conferiscono anche il sacramento della cresima. Eh sì, perché qui è abbastanza chiaro che si tratta del sacramento della cresima, anche se non si accenna all'unzione col crisma, ma comunque si parla chiaramente di imposizione delle mani perché tutti potessero ricevere lo Spirito Santo, meglio, il dono dello Spirito Santo. Dice infatti, essi discesero, e gli apostoli discesero in quella città, e pregarono per loro perché ricevessero lo Spirito Santo. Non era infatti ancora sceso su nessuno di loro, ma erano stati soltanto battezzati nel nome del Signore Gesù. Allora imponevano loro le mani e quelli ricevevano lo Spirito Santo. Ecco, questo, carissimi, mi pare molto significativo, Cioè, occorre il vescovo per dare la cresima, o almeno occorre un presbitero qualificato che in qualche modo rappresenti gli apostoli e quindi possieda come gli apostoli la pienezza del sacerdozio. Ecco, per donare la pienezza della vita cristiana occorre un ministro, diciamo, di grado superiore che possieda in qualche modo la pienezza del sacerdozio. Per cui il diacono Filippo non poteva cresimare, ma solo battezzare. E così è stato solo un pioniere, un iniziatore, un fondatore della comunità cristiana, la quale però poi abbisognava necessariamente anche dell'opera degli apostoli, per poter raggiungere quel grado di maturità richiesto dal Signore e richiesto altresì dalla Chiesa stessa. Ma ora, carissimi, vediamo un po' anche gli effetti della cresima. E penso che la seconda lettura ci metta già un po' sulla buona strada. Là dove, per esempio, San Pietro dice, rivolto a noi tutti, dice: adorate il Signore Cristo nei vostri cuori, pronti sempre a rispondere a chiunque vi domandi ragione della speranza che è in voi. Ecco, la cresima cosa opera in noi? Beh, direi che opera anzitutto una certa forma di fierezza, no? Fierezza giusta in questo caso, giusta e opportuna. Fierezza di aver ricevuto questa chiamata di Dio a seguire Cristo e ad appartenere al suo gregge. Fierezza di essere diventati in Cristo figli di Dio, in grado quindi di chiamarlo col nome di Padre. E questa fierezza, badate, non deve restare nascosta, no, ma deve portarci a difendere la nostra fede cristiana dagli attacchi esterni. Ecco, noi dobbiamo sempre, in ogni momento, quando capita l'occasione, saper rispondere a chiunque ci domandi ragione della speranza che è in noi. Naturalmente facendolo con dolcezza e rispetto, certo. Quindi non con la spada in mano, in atteggiamento da crociata, no? Ma piuttosto direi col sorriso sulle labbra e con tanta gioia nel cuore, in modo che quelli che ascoltano, che ci vedono, siano conquistati più dalla nostra carità che non dalle nostre parole. Perché la bocca parla dell'abbondanza del cuore, vero? E se nel cuore c'è il malanimo, allora le nostre parole non possono conquistare gli altri, non possono conquistare nessuno. Ecco, mi pare che questo sia uno degli effetti principali della cresima, cioè renderci fieri della nostra fede e quindi capaci di giustificarla e di difenderla davanti agli altri, davanti a tutti. Ma poi dice anche che è meglio soffrire, se così vuole Dio, è meglio soffrire operando il bene piuttosto che fare il male. Ecco, la cresima, quando capita l'occasione, ci rende anche capaci di sopportare la persecuzione per amore di Cristo, a causa di Cristo, a causa per amore della nostra fede cristiana. Ben sapendo che l'essere perseguitati è una beatitudine, secondo il Vangelo, non già una maledizione. Ma volevo mettere in risalto, carissimi, anche un'ultima cosa fra le molte rimaste, che cioè la cresima sviluppa soprattutto in primo luogo la nostra fede, facendo diventare appunto una fede adulta, una fede matura. Il Vangelo dice che lo spirito di verità il mondo non lo può ricevere perché non lo vede e non lo conosce. Voi invece lo conoscete perché dimora presso di voi e sarà in voi. E più avanti dice, ancora un poco il mondo non mi vedrà più, ma voi mi vedrete, perché io vivo e voi vivrete. Dunque il cristiano ha una capacità di vedere, diciamo pure superiore a quella del mondo, perché sa scorgere una presenza che il mondo non percepisce, che è appunto la presenza di Cristo invisibile, la presenza dello Spirito Santo invisibile. E secondo me questo è proprio l'effetto principale della cresima. Dunque la cresima è il sacramento della piena maturità della fede, soprattutto della fede. La fede cioè di chi avverte di vivere in una doppia dimensione, dimensione terrena, d'accordo, ma anche la dimensione ultraterrena. Quindi di chi avverte di essere a contatto strettissimo con tutta una realtà soprannaturale, invisibile per il mondo, ma comunque vivissima e realissima. Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.